perché non servono parole, le mie emozioni ora parlano da sole. Nasce in me il desiderio di un cammino, vento grande e non sono più bambino. Sono notti che non servono parole, le mie emozioni ora parlano da sole. Cresce in me il desiderio di un cammino.